questa partita loro la giocano fuori casa, però sapevamo di questa spensieratezza tattica da parte dell'allenatore Stramaccioni, quindi eravamo pronti, ma non ci ha trovato assolutamente impreparati. Però l'ho sentito con le mie orecchie, l'ho visto con le mie orecchie e ha fatto ironia sulla spensieratezza tattica dell'allenatore dell'Inter e dell'Inter. Tutti convocati di Carlo Genta. We still do not know who did this or why. And people shouldn't jump to conclusions before we have all the facts. But make no mistake, we will get to the bottom of this. And we will find out who did this, we'll find out why they did this. È la maratona più antica in assoluto, infatti ieri era la 117esima edizione. Diciamo che per gli americani la vera maratona è quella di Boston, che tra l'altro si corre ogni anno il lunedì del Patriot Day, quindi è un evento di piazza con un eco mediatico che non ha eguali. Gli altri avvenimenti sportivi molto importanti si svolgono al chiuso di un palazzetto di uno stadio, questo probabilmente come altri eventi che si svolgono nelle piazze ha questo problema, quindi della sicurezza che non riesce a coprire tutti gli spettatori di un evento così grande. Le maratone grosse, mi riferisco a New York in primis, poi alla maratona di Londra che si correrà domenica prossima, fanno 40.000 partecipanti, Boston solo, tra virgolette, 26.000. Però cos'è che ha Boston? Che per gli americani è la maratona storica, è il giardino di casa, il fiore all'occhiello, qualcosa che è sempre stato d'impatto. Lunedì, strano, no? Che si corre una maratona di lunedì, perché? Perché da loro è il Patriot Day, si sa che gli americani su queste cose sono estremamente orgogliosi. Io sono cattolico e credente e vi invito ad alzare un pensiero o una preghiera in qualunque lingua e per qualunque religione. Franco Piantanieri, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. È evidente che anche oggi parleremo di sport, è evidente che questo non è sport. Lo sport in questo caso viene risucchiato dal vortice di bombe, dal vortice della morte a Boston. È chiaro che non c'è nulla di sicuro se non tre morti, oltre 140 feriti, un'America di nuovo ferita, ma non si sa da chi e non si sa perché e non si sa per quale ragione. Non è questo il luogo in cui svolgere delle indagini. Questo è un programma di sport, come sapete, è un programma per parlare insieme di ogni argomento sportivo con il numero verde 800 24 00 24. È evidente che poi tratteremo di cose più frivole, che sono il nostro pane quotidiano, che sono lo sport, che sono il divertimento, che sono il passatempo, che sono lo scherzo, che sono anche la presa in giro. È altrettanto evidente che l'apertura di questo programma non poteva non essere dedicata, trattandosi di bombe che esplodono in mezzo allo sport, è altrettanto evidente che non poteva non essere dedicata a quanto è successo questa notte a Boston. E allora sentiamo un'intervista che Marco Loconte ha realizzato, collega del Sole 24 Ore, ha realizzato con un atleta italiano, Herman Achmüller, atleta professionista che ha corso la maratona di Boston in 2 ore e 27 minuti, arrivando prima quindi dell'esplosione di quelle bombe. Sentiamo. È una bellissima gara con la gente di gioia, è veramente una festa per tutta la città, anche di più festa di a New York, veramente qua la maratona vive proprio con la gente. E poi è veramente tragico che succeda una cosa così proprio qua. Proprio la maratona è una gara dove si incontrano da tutto il mondo, non è una manifestazione dove partecipano solo degli Stati Uniti, non, non, non trovi solo una nazione, ma da tutto il mondo, di tutte le religioni, è proprio là. Non me l'aspettavo mai, io giro tanto il mondo e anche normalmente porto anche la gente alla maratona, lavoro per un'agenzia di viaggi anche e giriamo tanto con la gente e mai avevo la paura che potrebbe succedere una cosa del genere. Da atleta, competere con persone di altre nazioni, di altri popoli, dalla pelle di altri colori, in parti del mondo molto lontane da casa, è un segno di unità, di condivisione, qualcosa di totalmente opposto rispetto a un attentato, a un attacco, all'uccidere. È proprio quello, è più e anche le maratone le fanno sempre così, qua ci incontra tutto il mondo, festeggiamo insieme, sembra sempre così il maratone, tutte le maratone grandi sembrano così, siamo uniti così in quel senso, ma e poi è veramente una grave cosa se succede proprio là qualcosa del genere. Quante maratone hai fatto fino adesso? Con ieri 64. Quanti anni hai? 42, no. Il tuo miglior tempo è 2:17, un tempo di 2:18, un tempo di tutto rispetto. Ieri 2:27, insomma. Sì, ma era anche perché è duro qua, il percorso è molto duro e ho fatto una bellissima gara, ero anche molto felice, dico, quando sono entrato all'arrivo, sì, ma poi certamente la gioia è passata quando ho sentito quella. La maratona di Boston che significato ha? È la più antica del mondo, ma qual è la sua peculiarità? Ma è proprio la maratona dove si sente che tutta la città vive per quella maratona, ma è la gente, anche se vai a New York così, ma qua lo sento ancora di più perché Boston è proprio maraton, la città vive proprio per quella manifestazione. Da noi in Europa si deve dire è più conosciuto New York, ma per gli americani la maratona più importante è Boston, senza dubbi. Tutti convocati. Sono arrabbiato, sì, non mi piace questo mondo. Sono stato un calciatore, ho pianto per la Isel, sono un runner, se ora piango per Boston, Max da Bergamo. Io non piango, io sono arrabbiato e alzo una preghiera, vi invito a farlo. Alessandro da Milano, Fabrizio da Roma, 800240024, poi parleremo, come ho detto, di Lazio-Juventus, dei mattoni di Conte, di tutte queste cose che riguardano lo sport, perché così bisogna fare. Alessandro. Salve, allora, anch'io volevo unirmi al dolore per l'attentato di Boston. Tra l'altro io stavo vedendo la Juve quando girando su Sky anch'io. Ho visto questo attentato, non ho più visto la partita. Anch'io. Invece parlando della mia Juve, volevo chiederle un suo parere in merito alla mia proposta per rilanciare il marchio Juventus. Per? Cioè, secondo me rilanciare il marchio Juventus all'estero è quello magari di associare il nome dello stadio alla Ferrari, che comunque è un marchio molto famoso all'estero e potrebbe rilanciare il marchio Juve. Ma quello della Juve è già abbastanza famoso, quello della Juventus è già abbastanza famoso e non ha bisogno del marchio della Ferrari, secondo me. Sono cose che ovviamente tutti sappiamo appartengono alla stessa famiglia, alla stessa proprietà da sempre, però secondo me non c'è questa esigenza e dico anche che la società Juventus sul piano della così utilizzazione del marchio, dell'utilizzazione dello stadio, del merchandising eccetera, è l'unica società normale del calcio italiano nel calcio europeo, non dico avanti rispetto agli altri del calcio europeo, è in linea con il calcio europeo, è tutto il resto che è indietro. Fabrizio, Roma. Buongiorno Genta, io sono... chiamarmi maratoneta è una parola grande, io ho cominciato a correre da ragazzino perché non ero bravo in nessuno sport e quindi l'unica cosa era correre, ne ho corse una ventina di maratone da 42 e tantissime corse, mezze maratone o corse di fondo 10-12 km. Ho 46 anni, ho un bambino di 6 e uno di 3, ho cominciato adesso a portarmeli dietro da un paio d'anni quando vado a fare ormai le stracittadine, quelle da 5 km, le passeggiate. Sì. vedere quello che è successo ieri, la garantisco, non riesco più a capire dove siamo arrivati con questo sport. Perché no, ma non c'entra, Fabrizio, però è chiaro che non bisogna fare confusione tra le maratone, tra l'altro si correrà regolarmente, si dice quella di Londra, tra l'altro non c'è certezza sui mandanti di questo, di quello che è successo a Boston. Non c'è ancora chiarezza su quanto è successo a Boston, ma è inutile mescolare la maratona, lo sport, con quello che è successo ieri sera nella tarda sera italiana a Boston. Quindi secondo me è un parallelo improprio. Le maratone sono meravigliose, hanno diritto di cittadinanza, che siano 5 o 42 chilometri, che siano corse in 20, in due ore o meno, che siano corse in 50 ore. Non è questo il punto, secondo me. Quello che è successo ieri a Boston, ovviamente con il beneficio del dubbio, è una grande tragedia, non si sa dovuta a chi, si sa dovuta soltanto a che cosa. Si sta vincendo un campionato, siamo in testa in classifica dall'anno scorso, con numeri straordinari. La vittoria qui all'Olimpico è una vittoria sicuramente molto molto importante, che fa mettere un altro mattone, così ci fa avvicinare al traguardo. Conte continua a mettere i mattoni, manco fosse un carpentiere. Chissà dove vuole arrivare con questi mattoni, visto che la Juventus ha già vinto lo scudetto. E voi juventini fate pure gli scongiuri che volete, o chiamatemi 800240024 e fate gli scaramantici. Ha già vinto lo scudetto, si possono fare le magliette celebrative, le sciarpe, poi discutiamo sui 31, sui 29, ma sono discorsi di confine e di contorno. Io saluto e ringrazio Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao a tutti voi. Io so che sei a Caserta. Sì, a un matrimonio, in attesa di sedermi a tavola. E da lì non ti alzerai più. Sarà dura, sarà molto dura. Non sono previsti anche i tempi supplementari e calci di rigore. Previsti supplementari e rigori, non ti vedo benissimo. Ma comunque, ho visto invece benissimo la Juventus di ieri sera, a sorpresa con una punta sola, a sorpresa con tanti incursori, un po' come succedeva l'anno scorso, no? Quando a inizio stagione segnava Vidal, segnava Marchisio, segnava qualunque centrocampista si presentasse dalle parti dell'area avversaria. Una Juventus un po' d'antan, se vuoi, d'antan rispetto all'anno scorso. Sì, ma è una Juventus che lui aveva in testa per la gara d'andata col Bayern Monaco, e che non era una cattiva idea, eh? Esatto, bravissimo. È qualcosa che lui aveva provato, poi si è ritrovato con Marchisio in precarie condizioni, reduce da una brutta influenza, e Vucic proprio influenzato, infatti è finito in panchina e quindi ha dovuto cambiare strategia. Ma lui a Monaco avrebbe giocato esattamente come ieri con la Lazio, e come dici tu, secondo me sarebbe stata un'ottima idea. Sì, ieri sera era Vidal, no? Vidal sopra le stelle, Vidal giocatore indispensabile, Vidal a cui non si può rinunciare, lo ha detto anche Conte. Però io ho visto Vucinic fare un paio di giocate, compresa una palla in mezzo a tre, data a Vidal con un dribbling che poi è stato rimbalzato da fuori classe assoluto. Lui ha questi picchi, hai ragione. Lui ha questi picchi, però io posso chiederti una cosa, che è un dubbio che ho da sempre. Ma non è che questo turnover e gioca unica punta, e gioca Quagliarella, e gioca Matri, e gioca Giovinco, e gioca un altro, finisca per stordirlo un po' e per limitarne il rendimento? Ma allora, può essere anche questo, anche se lui di suo, la storia di Vucinic parla di un giocatore con picchi da autentico fuori classe, ma continuità così così, ed è un po' tutta la storia della sua carriera che lo dice. Quindi insomma, diciamo che se Vucinic fosse stato continuo nella sua carriera, oggi staremmo a parlare di uno dei 5-6 giocatori più forti del mondo, perché in effetti ha numeri straordinari, ha numeri da fuori classe. per me è un fuoriclasse, io l'ho sempre detto, forse una delle poche cose giuste che ho detto in carriera. Senti, la Lazio è spremuta, l'abbiamo visto ieri sera, a parte il fatto che era senza mezza squadra, era quel che resta della Lazio, quel che resta del giorno. Il Milan mi sembra abbastanza arrivato dal punto di vista fisico, l'Inter è spenta, Stramaccioni oggi ha detto la Coppa Italia non è decisiva per il mio futuro, questo lo vedremo. Mi pare, Mirko, volendo essere onesti, se vogliamo raccontiamoci pure delle favole, però mi pare che davanti il campionato abbia ancora poco da dire, se non la possibilità della Fiorentina, e vediamo quanto è bollito il Milan. Sì, sono d'accordo con te, anche se voglio vedere il Milan a Torino, insomma lì potrebbe esserci un'ulteriore scossa alla quale io credo poco come te, perché mi sembra che il Milan abbia dato proprio tutto per questa grande rimonta e credo che dovrà semplicemente conservare il terzo posto, però magari una vittoria a Torino potrebbe dare un'ulteriore scossa, considerando il fatto che il Napoli ha sì un calendario non particolarmente difficile, ma è comunque una squadra che spesso si è fermata davanti a ostacoli non proibitivi. Mirko, io ti lascio andare al matrimonio con una promessa. Me la fai? Dimmi, sì. Un bacio alla sposa. A quello sì, perché è la mia splendida cuginetta. La tua splendida cuginetta, un bacio alla sposa. Una stretta di mano allo sposo, ma non di più. Esatto, mai più di una stretta di mano allo sposo. Mangia tutto e salvati, Erico. Grazie ragazzi, ciao. Grazie a Mirko Graziano. Piangiamo anche per le vittime di tutte le guerre, naturalmente, Gianluca da Milano. Preghiamo per i 3 morti di Boston, ma preghiamo anche per i 29 civili, di cui 2 volontari morti 2 giorni fa a Mogadiscio per una bomba identica a quella di Boston, e non ne parla nessuno, scrive Fabio. Vi ripeto, questa non è la sede giusta, il luogo giusto, il contenitore giusto per approfondire certi discorsi, però è lo sport che viene assorbito in questo vortice di violenza, quindi mi sembra corretto parlarne insieme ad altri argomenti che sono prettamente sportivi. Non mi pare che il livello degli ascoltatori si sia abbassato in modo esponenziale, come scrive un ascoltatore via sms 349-238-6666, casomai, semmai negli ultimi mesi, secondo me è il contrario, anche a giudicare dalle telefonate che arrivano. Stefano, provincia di Alessandria, buongiorno. Sì, buongiorno Gio. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Io, ragazzi, ho chiamato perché sono un maratoneta, sì. E volevo solo portare la mia testimonianza. Ho corso anche a New York, ad esempio, quindi conosco anche l'ambiente americano, diciamo. È la testimonianza del traguardo di una maratona che è psicologicamente determinante. Tenga presente che lì erano a 4:10, quindi non erano professionisti, diciamo. Sì. Ma è gente che per arrivarci ha probabilmente si è voluto colpire il cuore della popolazione normale, però esatto. Però Stefano, aspettiamo a fare ogni congettura, perché nemmeno l'FBI in questo momento ha dato delle risposte, abbiamo solo dei fatti crudi. Però è un momento psicologicamente determinante. Tenga presente una cosa, in quasi tutte le maratone al traguardo vedrà papà o mamme che tagliano gli ultimi 100 metri con i figli in braccio, quindi è proprio un momento diciamo cruciale anche psicologicamente. Sì. E l'ultima cosa, fisicamente... il maratoneta a quel punto, per quanto anche sia diciamo bravo, è quasi debilitato. Sì. Quindi ha freddo, quindi ha fame, ha dolori. Non oso immaginare cosa significhi provare paura. Ci si spaventa a volte per una voce al volume alto, perché si è proprio deboli. Ecco, non oso immaginare cosa abbiano provato quei maratoneti. Non oso nemmeno io, ma mi viene la pelle d'oca, questo è evidente, no Stefano? Sì, l'unica cosa è che aspettiamo a tirare delle conclusioni, perché ripeto, non sappiamo che sono esplose delle bombe, sappiamo che ci sono delle vittime, sappiamo che ci sono molti feriti, non sappiamo nient'altro, abbiamo solo il ghiaccio nelle vene, e questo vale per lei maratoneta, ma vale anche per me che non ho mai corso un metro di una maratona. Tutti convocati. non ci sono complimenti da fare per l'incipit della trasmissione, io dico semplicemente quello che sento e quello che penso, compreso il fatto sportivo che secondo me Vucinic ha colpi da fuori classe, a prescindere dal numero di gol che fa. L'ho sempre pensato, l'ho sempre detto, mettiamolo nel Real Madrid e poi vediamo, poi il mondo è bello perché è vario, soprattutto nei pareri. Però adesso voglio parlare di un argomento futile, perché anche nel calcio si vota la fiducia, sentite, no? Questo sottofondo. Mi fido di te. Allora, si vota la fiducia, chissà se almeno lì si riesce. E il Sharawi? Ma mentalmente può darsi, perché è chiaro che un ragazzo di 20 anni ci sta che può avere un calo di fisico e mentale, però infatti io rispetto assolutamente la scelta del mister di tenermi fuori, e ripeto che non c'è assolutamente nessun problema tra me e lui, è stata semplicemente una scelta tecnica e la rispetto, quindi penso solo ad allenarmi bene e a continuare così e basta. Lampi di luce, al collo una croce. Questo era il Sharawi. Cavani la fiducia ce l'ha, chissà se la porterà da un'altra parte. Io a Napoli, così come loro mi hanno dato tanto, io fino al giorno che ci sarò a Napoli darò il massimo, perché sono fatto così, perché mi hanno cresciuto così, e quindi quello sì, quello posso promettere, dare il massimo e impegnarmi sempre al 100% per vincere e per ottenere delle cose più belle e più grandi che esistono. Di stendermi sopra il burrone, di guardare 800 24 00 24, il numero verde per intervenire oggi come ogni giorno. A proposito di fiducia, Moratti dice di averne ancora in stramaccioni, chissà se è vero. Conferma la fiducia incondizionata a stramaccioni, come ha fatto anche recentemente, a prescindere da come finirà la stagione. Noi stiamo facendo un campionato difficile, abbastanza drammatico dal punto di vista degli infortuni, quindi non posso fare altro che sostenerlo e fare in modo che lui riesca a inventarsi quello che è difficilmente inventabile, ma che però con un po' di fantasia magari e un po' di fortuna si può poi girare al positivo. Questa non è un'esercitazione, forza e coraggio. Questo era Moratti, ma Stramaccioni questa mattina in conferenza stampa ha detto che la Coppa Italia, che si gioca domani in semifinale di ritorno, non avrà incidenza sulla sua fiducia, sul suo futuro. In questo momento la fiducia è per tutti, non è per l'allenatore. Fino al 30 giugno dobbiamo dare il massimo, quindi da me fino all'ultimo giardiniere. Dopo il 30 giugno il presidente tirerà le somme che meglio reputa, però io non credo che il mio futuro dipenda dalla partita di domani. Cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te. Quindi ci sono molti voti di fiducia in giro. Io mando simpaticamente al diavolo che mi dice che ho una retorica dozzinale superata. Lo invito qui al microfono a parlare con me e invito lui a fare esercizio, e non so chi sia perché tanto non si firma, però se mi chiama facciamo un confronto anche di dialettica, perché io mi diverto e lo mando a fare un bagno in diretta. Ma che sono un po' permaloso, sì, lo ammetto, sono un po' permaloso, sì, pochino, non tantissimo. Antonio, provincia di Latina, chissà chi è questo signore? Antonio? Sì, buongiorno signor Genta, grazie di essere convocato. Secondo lei ho retorica dozzinale superata? Ma neanche tanto, dai. Neanche, meno male, un filo. Allora, io chiamavo perché già da qualche già la settimana scorsa volevo intervenire, perché c'era questo sul moto mondiale, perché, sì, insomma, volevo un attimo capire la sua impressione sul fatto che secondo me adesso vedremo sì un bellissimo campionato sicuramente, però ho i miei dubbi sul fatto che Rossi resista più di tanto a fare la seconda moto. Non perché? So, questa impressione. No, a fare la seconda moto, ma è chiaro che lui vuol fare la prima moto, cioè il discorso è che sarà una battaglia durissima all'interno di quel team, all'interno di quel box. Chiaro che Rossi la seconda moto non la fa a nessuno, no? Almeno in linea di principio. Forse era proprio questo che metterà un po' di pepe in più al campionato. Ma poi ognuno in sella corre per sé, no? D'altra parte alla Red Bull sappiamo benissimo dove non ci sono, tra poco tra l'altro parleremo di Formula 1, non valgono gli ordini di scuderia e succedono anche ci sono anche dei problemi come quelli che abbiamo visto un paio di settimane fa. D'altra parte, se prendi Valentino Rossi non gli puoi dire fai il Massa, no? Perché Valentino Rossi è Valentino Rossi. Lorenzo è comunque oggi il più forte pilota del mondo. Io credo che sarà una grande battaglia all'interno della Yamaha, sarà una grande battaglia anche strategica, anche politica se vogliamo. Vedo Marquez come terzo incomodo più di Pedrosa, però Rossi è chiaro che non ha neanche cominciato a fare la seconda moto. No. Franco, Roma, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Allora, io chiamo, ieri ero allo Stadio Olimpico per lavoro. Sì. Non sono né laziale né Juventino. Che vuol dire per lavoro? Cioè era... Per lavoro, perché faccio l'autista e stavo con un personaggio ed ero allo stadio per lavoro. Capito. Allora, le faccio presente, volevo solo far presente una cosa, che è brutta per la Juventus, perché logicamente... Allora, io ero lì allo stadio, allora la Juve, c'erano più di 2000 che erano stati mandati i biglietti di Juventini. La Juve da metà del secondo tempo vinceva la partita 2-0 con una Lazio annichilita, con i laziali annichiliti, ha continuato senza questi tifosi, non 5 cretini, ma tutti, ad offendere la Lazio, la lazialità, e quando non ce l'hanno fatta Roma, per tutta la partita fino alla fine, senza nessuna provocazione. Allora io chiedo allo stile Juve, è possibile che l'immagine che poi venga data fuori dalla Juve, da Torino, sia questa? No, ma io chiedo a chi ha il potere di intervenire su queste cose, no? Che mi risulta, se non ho perso il conto, di norme, decreti, regolamenti, leggi vigenti, eccetera, eccetera, essere l'arbitro. Quindi la domanda bisogna rivolgerla non a me, bisogna rivolgerla a chi ha il potere di intervenire sulla base di quanto lei dice in queste situazioni, perché risulta, ripeto, se non ho perso il conto di tutta la legislazione calcistica, che ci sia un individuo che ha il potere di intervenire quando succedono queste cose, quando sente che c'è qualcosa che non va. Dunque questo è il senso del discorso, ma molto più banalmente dovrebbe essere quello stesso individuo che decide se un giocatore che si butta per terra merita che il gioco sia fermato o bisogna continuare a vedere i palloni sparati in tribuna, cosa che a me fa rabbrividire, non mi fa rabbrividire, cosa che non approvo, cosa che mi mette tristezza più che rabbrividire. Adesso parliamo d'altro. Fenomenale, grande weekend, c'era tanta pressione, però grande weekend, ordinati, tranquilli, questa è la nostra forza. Ti meriti questo successo, Fer. Complimenti da tutti noi e complimenti alla squadra. Questo era Stella, cioè colui che parla con Alonso dai box. Io invece parlo con Giorgio Terruzzi, una delle voci più note e più autorevoli. Buongiorno. Dei motori italiani. Ciao, buongiorno, Giorgio. Buongiorno. Parli con uno che ha una retorica dozzinale superata, e tienine conto, me lo scrivo un ascoltatore. C'è di peggio nella vita. No, senti, io voglio ovviamente parlare con te di Formula 1, di quanto è successo, di quanto succederà, dei team order, del riso in bianco di Alonso, eccetera, eccetera. Però prima, visto che sei uno scrittore e un uomo di sport prima di ogni altra cosa, vorrei parlare con te di, anche se non sappiamo nulla, di quelle bombe esplose a Boston. Cosa vogliamo dire? Mi sembra che ogni tipo di commento è un commento quasi prevedibile tra persone di normale buon senso e di pietà e di rispetto per il genere umano, no? Sono cose che sono al di là di ogni È la prima volta che viene colpito, non si sa da chi, non si sa come, lo sport però. Sì, credo che però non sia lo sport il nel mirino, credo che mi farvi capire, perché per quello che si capisce che sia semplicemente stato un pretesto, cioè una situazione che lo sport propone, cioè di, certo, di assembramento, di aggregazione di persone. Giorgio, ci fermiamo un attimo, poi parliamo di Formula 1, strade, poi di nuovo qui con Giorgio Terruzzi. Gli stai dando 3-4 decimi a settore, Fer, no need to push. Tutti convocati. Allora, Giorgio Terruzzi, che non è permaloso come me, ma ha una voce molto più autorevole della mia, l'approccio di Alonso, l'approccio a questa gara, l'incipit di questa gara è stato molto interessante. Tra Horner che dice andate a correre in Bahrain tra una settimana, avete paura, ma io la guerra ce l'ho in casa tutti i giorni. Alonso che parla dei team order e dice io firmo un contratto per fare quello che devo e non altre cose che non mi riguardano. Massa davanti a me nelle prime due corse, sto perdendo tutti i capelli. Non è stato male, eh? No, ma insomma c'è un po' di aria fritta dentro tutto questo. Ma cioè, naturale. Cioè, Alonso sa di essere un primo pilota non per ordine di nessuna squadra. Secondo me questa gara è stata decisiva proprio per cambiargli un po' l'umore. Cioè, lui aveva da mesi un problema di crediti da riscuotere, un giramento di balle supremo, perché lui considera Vettel inferiore e sono 3 anni che gli vince il mondiale in faccia, due sì. Proprio in faccia. Sì, sì. Lui ha considerato per mesi, secondo me, la Ferrari non alla sua altezza e secondo me questa gara raddrizza la pettinatura, cioè è una gara che ha vinto la Ferrari quanto Alonso. Non succedeva da molti, credo che sia la prima volta che succede una cosa del genere da quando è Alonso e la Ferrari. Quindi questo è quello che è successo domenica e quello che c'era prima di domenica. Poi non è vero che secondo me che Horner ha la guerra in casa, perché Webber, un po' perché è un signore, un po' perché forse è meno costante di Vettel, è meno feroce, di problemi seri non ne ha mai prodotti, cioè tant'è vero che domenica l'altra in Malesia si è cuccato quello che si è cuccato e praticamente non è successo niente, non ha detto niente. La gara dopo gli hanno sbagliato i calcoli della benzina in prova, ha perso una gara, una ruota in corsa, quindi Massa secondo me sfruttato intanto una macchina che è più adatta al suo modo di guidare, ma sa più carattere di quanto sembri, cioè uno che viene fuori dai suoi casini. Era Alonso, secondo me, che cercava una serenità che ha trovato adesso. Quindi è vero che non si strappava i capelli o che non aveva problemi, perché lui sa di essere Alonso, però qualche problema l'ha avuto in questi mesi. Lui ha fatto un inverno pessimo, secondo me, Da resa dei conti, Giorgio. Questa è la stagione della resa dei conti. Secondo me, io sono convinto che Alonso, se non dovesse vincere quest'anno, non resta la Ferrari. Sì. Quindi io credo che invece ha capito che può vincere questo mondiale con la Ferrari. È questo, secondo me, che ha segnato questa corsa. Senti, permettimi di fare un po' di dietrologia. Sì. Quell'alettone danneggiato, allora si è molto parlato di responsabilità del muretto, si è molto parlato di responsabilità di Alonso, si è detto Alonso deve decidere in proprio. Io credo che quando un pilota sia nell'abitacolo con l'adrenalina che gli schizza dalle orecchie, che con pure l'esperienza che ha Alonso, non possa essere in grado di decidere se, come e quando. In molti avrebbero fatto come Alonso, che poi il team, come fa sempre la Ferrari, copra un errore del pilota, ci sta. Secondo me Alonso ha deciso di continuare come era giusto che facesse uno nei panni di Alonso. Come ogni pilota? Sì, alla riprova, l'ha data Raikkonen in questo fine settimana. Cioè Raikkonen ha avuto un tamponamento con Perez più violento. Sì. sì, di quello sì, di Alonso. Sì. Il punto di vista del pilota non è quello nostro, cioè lui non è che vede cosa c'è all'ala sotto. Raikkonen ha continuato, ha finito la corsa secondo, senza cambiare l'ala, non sapendo esattamente, non avendo una percezione di che quali condizioni esatte ha l'ala davanti. Però hanno un'altra percezione, sanno perfettamente questi qui, che sono dei cani malati, che se si ferma, allora Alonso era il primo giro con gomme da bagnato, si sarebbe dovuto fermare, cambiava il muso e metteva le gomme da bagnato un'altra volta, la pista bagnata, andava ultimo di un bel tocco, dopodiché dopo sei giri doveva rifermarsi e mettere le gomme da asciutto. Non, cioè, nessuno si ferma, no, schiacciano e bucano il pavimento della macchina. Ma certo. Fine delle trasmissioni. Del resto, se tu vuoi uno che vince le corse, è così. Se no, hai uno che arriva ottavo. Senti, per chiudere, Giorgio, adesso si va in Bahrain. Al di là della guerra o non guerra che c'è nel Tyrrell Bull, tu dici non c'è. Quanto conta questa corsa? Nei giochi di potere, ovviamente in classifica niente, ma nei giochi di potere, nei mind games di questo mondiale, quanto conta? Beh, allora, potrebbe contare moltissimo, cioè, allora, il problema della Ferrari resta la Red Bull, che domenica ha sbagliato fine settimana per una serie di motivi. Hamilton no. Non ancora, secondo me. Cioè, sul passo di gara mi sembra che la Ferrari, con queste gomme, le gomme del Bahrain saranno le stesse, cioè morbide e medie, no? Sì. Che sono un po' le stesse che vengono usate in Bahrain, che sono le gomme che fanno rendere la Ferrari meglio rispetto ad altre gomme. La reazione della Red Bull è prevista, è una pista tradizionalmente favorevole alla Ferrari, cioè qui la Ferrari cerca una conferma e può averla, la Red Bull deve dare un segno e può darlo, secondo me il tema è un po' questo della corsa che arriva, e secondo me bisogna vedere cosa succede ad Alonso in qualifica, perché il dato più importante, più nuovo rispetto all'anno scorso, è che questa macchina lo fa partire terzo, cioè non lo fa partire quinto o sesto, cioè è una macchina che può permettergli di mettere in pista una corsa non in salita, sì, allora, certo. Se questa cosa si conferma, allora vuol dire che insomma tutti questi discorsi di entusiasmi, di cose che sono stati fatti dopo la corsa in Cina, hanno una ragione d'essere sul serio, diciamo così. Il giramento delle balle diminuisce un pochino. E gli ha diminuito, cioè, secondo me, cioè lui proprio aveva una bella faccia da Pasqui, non lo vedevo così da tanto tempo, lo vedevo cupo lì, tutto sì, ingobbito, ingrigito, sì, una roba proprio di uno che gli va male tutto, no? È morto il gatto? No, sì, pochino, ho perso il confetto. Sì, che è un ragazzo molto intelligente, però lui molto. come Schumacher, cioè, come questi qui, non hanno il senso della sconfitta. No, quando vedono qualcosa che appartiene al loro talento e che considerano un elemento di esclusiva proprietà, sì, vedono qualcosa che non ha quella pasta lì, che premia altri. Diventano matti. Io lì ci posso arrivare, non ci arrivo, mannaggia lui, lo farei a pezzi. Grazie Giorgio, professore, sempre un piacere, anche per me, buon lavoro, ciao Giorgio Terruzzi. Chiudiamo con Paolo, provincia di Varese, 800 24 0024, poi riprendiamo domani naturalmente. Paolo? Sì, salve Carlo. Ciao. Grazie per la convocazione. Sempre e convocati. Per la bella chiacchierata di Giorgio Terruzzi. Sono oltre 40 anni che seguo la Formula 1. Sono nato da pochi chilometri dalla curva di Lesmo a Monza. Dalla curva di Lesmo, certo. Ecco, mi rifaccio alla telefonata di ieri, di quel simpatico ascoltatore che voleva il Gran Premio in Africa. Sì. E lei ha risposto che la Formula 1 va dove ci sono i soldi. Quindi quest'anno il Gran Premio in Italia non c'è. Quest'anno il Gran Premio d'Italia giù la Clara, No, ma lì tentano di, insomma, lì i soldi si trovano, ma dove c'è la tradizione tutto sommato si tende a salvaguardare, poi si vanno a cercare i dollaroni da altre parti, perché sennò finisce che corriamo, che il mondiale di Formula 1 diventa in Cina, in Bahrain, sulla Luna, su Marte, su Giove, in Qatar, in Turchia. Però ci sono delle enclave di tradizione che anche lor signori, con i capelli brizzolati alti così e gli occhiali, dei quali Montezemolo dice che bisogna avere rispetto per gli anziani, anche loro lo sanno. Chiudo, tranquilli, ci sentiamo domani alle 2. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao.